4A. Ascolta e rispondi. Marco, sei libero? Sì, sono libero. Carl, sei contento? Sì, sono contento. Sandro, sei italiano? Sì, sono italiano. Enzo, sei nervoso? Sì, sono nervoso. Rosa, sei occupata? Sì, sono occupata. Mina, sei famosa? Sì, sono famosa. Ingrid, sei tedesca? Sì, sono tedesca. Silvia, sei libera? Sì, sono libera.